Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io non amo quando è freddo, tutte le cose sono senza colore, e nell'inverno è tutto grigio, metti il mio cuore una fame di sole. E sì, perché lui è buono e generoso, ha tanto da offrirci, tantissimo, ma bisogna saperlo prendere, ed è quello che faremo con l'aiuto della nostra derma amica, la professoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo che Skineco è l'associazione di dermatologia ecologica e parleremo anche di questo, di quanto sia importante salvare la nostra pelle e salvare anche avere il rispetto per l'ambiente. E calcolando anche che il sole e i raggi solari fanno proprio parte dell'ecosistema ambientale. Dottoressa Serri, come ogni anno, quando arrivano le belle giornate, si sente nell'aria magari il profumino di una vacanza, arrivano in contemporanea gli allarmi sui danni solari, ma il sole non è un nemico, direi che al contrario può esserlo, ma generalmente noi possiamo considerarlo come un amico molto generoso. Avrà il suo carattere, quello è vero, ma chi lo conosce e lo prende per il verso giusto può ricavarne tantissimi vantaggi. Io partirei da questo. Ma certamente dobbiamo calcolare il sole un po' come il cibo. Il cibo dà vita, il cibo è amico della nostra vita, senza cibo non avremmo carburante. E il sole è proprio come un cibo, quindi in giuste quantità, nel modo giusto, per ciascuno di noi, per ogni tipo di pelle, che poi vedremo e ne parleremo, fa benissimo. In eccesso fa male. Fa enormi danni, in eccesso come tempo, in eccesso come latitudine. Certamente il sole di Dublino non è paragonabile al sole del Kenya, non è paragonabile al sole di un'isola del Mediterraneo. E poi dobbiamo calcolare anche il fototipo. Il fototipo non è il colore della pelle, ma è come la nostra pelle reagisce al sole. Quindi fototipo e fenotipo, un'altra parola che si sente, si legge in questi giorni sugli articoli che compaiono, perché ogni anno puntualmente ci sono i temi di stagione, sì. Sono due parole che vengono spesso confuse. Confuse, invece, il fenotipo è come appariamo. Noi siamo con occhi chiari, occhi scuri, bruni, biondi. Fototipo, invece, è come la pelle risponde al sole. Esistono persone scure di capelli che si scottano sempre al sole, producono poca melanina, hanno un fototipo basso, e viceversa. Allora, In previsione avete un weekendino al mare o andate in campagna, vi fate una gitarella fuori porta. Ci sono tante occasioni adesso per prendere il sole, ma non è necessario fare delle gite fuori porta, anche nei parchi, sul balcone, camminando per la strada, andando a fare la spesa, il sole ci bacia. Ma allora quello che oggi vogliamo sapere di voi è, al di là della distinzione fototipo e fenotipo, diventate rossi come peperoni e poi come se nulla fosse, tornati di nuovo bianchi? Quando vi esponete al sole, vi ricoprite di puntini e siete i classici che al mare devono poi mettersi la maglietta bianca perché per non scottarsi? Vi abbronzate invece, vi abbronzate bene, rapidamente, però vedete che la vostra abbronzatura nel giro di pochi giorni perde un po' smalto, iniziate a spellarvi, la vostra pelle diventa subito secca, vi ungete invece come pesci per evitare rughe soprattutto, o a pois, vi mettete la crema a pois per coprire i vari nei? 800 24 00 24. La dottoressa Riccarda Serri è qui pronta a darvi delle indicazioni. Noi partiamo proprio da come reagisce la nostra pelle al sole. Dottoressa Serri, non abbiamo sottolineato però tutti i vantaggi del sole, dal buon umore che ci regala. Certo, innanzitutto il sole è quello che permette la vita sul pianeta, perché grazie al sole c'è la fotosintesi clorofilliana, tanto per dire. Per quanto riguarda l'organismo umano, il sole, grazie alla produzione, alla sintesi di vitamina D, che la combinazione raggi solari-pelle permette, ecco che aiuta il nostro scheletro, è la cosiddetta vitamina antirachitica, ma non solo, aiuta il metabolismo, aiuta il sistema immunitario. Un tempo le nonne davano ai bimbi l'olio di fegato di merluzzo. Sì. Aveva un suo perché, anche dopo le malattie, perché era ricco di vitamina D e quindi aiutava il sistema immunitario anche di vitamina A. Quindi agli inizi del secolo scorso, nell'Ottocento, esisteva l'elioterapia. Oggi ancora esiste l'elioterapia fatta magari con lampade speciali per determinati disturbi della pelle. Per cui il sole, soprattutto il sole che non insulta, il sole che non scotta, quindi il sole del mattino presto e del tardo pomeriggio, fa bene in linea di massima, salvo distinguo per situazioni individuali. Mentre il sole, quando è allo zenith, il sole del mezzogiorno, il sole dei tropici, se noi non abbiamo quella bella pelle carica di melanina, tipica dei neri, di chi ha la pelle molto scura, ecco, in quei casi fa male. Guardiamo il gatto di casa. Il gatto di casa, appena arrivano i primi raggi solari, si mette. Ma non vedrete mai un gatto al sole quando il sole scotta troppo, quando fa troppo caldo, o a mezzogiorno in agosto. Insomma, è un amante, diciamo così, appassionato e focoso, per questo la pelle che è saggia si difende, lo fa colorendosi in modo più o meno intenso. Infatti l'abbronzatura, che a noi piace molto perché ci fa sentire più belli, più sani, più in forma, in realtà altro non è che un meccanismo di difesa. C'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, ma questo è la verità. Esatto, no? L'abbronzatura è fabbricata in questi laboratori sublimi, che sono i melanociti, le cellule della nostra epidermide che producono la melanina. La melanina può essere buona e si chiama eumelanina, ed è la melanina tipica di chi si abbronza tanto, e più ne viene prodotta più uno è autoprotetto al sole. E i neri hanno tanta melanina, non aumenta il numero dei melanociti che sono i produttori, non aumenta il numero delle fabbriche, aumenta la produzione delle fabbriche. Invece le persone che si abbronzano a Pois, i rossi, gli scozzesi, quelli... Beh, come lei, guardi un me, po'. Ecco, diciamo, io ho la feomelanina, che è la melanina, quella un po' stupidotta, un po' inutile, però, un po', insomma, pazzerella. Ce l'abbiamo tutti, dai. Mario da Palermo, ci sarà un bel sole. Mario, buongiorno. E poi abbiamo Ernesto da Roma. Mario. Sì, un bel sole sì, ma un bel calore anche. Allora, il mio problema è questo. Negli ultimi anni, quando vado al mare, mia moglie riesce a, diciamo, a stare sotto il sole mezzo da una parte e mezzo dall'altra, come le sardine quando si girano. E io invece non lo sopporto, non solo lo sopporto, ma poi mi rendo conto che la sera sono tutto pieno di macchie rosse, ma si gonfiano queste macchie. Questa è una cosa. Poi ultimamente addirittura appoggiando le braccia, per esempio su una sedia, su qualsiasi cosa, anche su un cuscino, diventa quasi subito rosso la parte, ma poi anche lì si bomba tutto, come si gonfiasse. Insomma, Mario ci ha fatto una descrizione. No, beh, per un dermatologo è chiaro, mi rendo conto che per gli ascoltatori allora, può essere meno. Allora, che cos'ha, Mario? Si riempie di ponfi. E il ponfo è la caratteristica primaria dell'orticaria. Quindi il nostro amico ha una forma di orticaria, noi non possiamo sapere se è dovuta ai raggi solari oppure al calore. Quindi è un'orticaria da calore, da elementi fisici. Sicuramente ha una pelle reattiva, perché anche nei punti di pressione meccanica, probabilmente quando si gratta gli vengono tutti i segni rossi e un po' gonfi, è una forma di orticaria. Come si fa? Come si fa? Anche perché vive a Palermo, deve stare al caldo. Deve cercare di andare al sole negli orari soprattutto più freschi, quindi sempre siamo il mattino. Sì. Quando io dico il mattino è fino al massimo alle 10 del mattino. Negli altri orari si mette sotto l'ombrellone, prende un bello spruzzatore per le piante oppure dell'acqua termale spray e periodicamente se la spruzza addosso. Si deve chiaramente proteggere. Come consiglio generale dovrebbe fare una valutazione medica e dei test ematochimici, cioè gli esami del sangue, valutare le immunoglobuline e le famose IgE per valutare che non siano un po' alte, vedere lo stato di salute generale. perché talvolta la presenza di orticaria si lega a tanti altri fattori interni che vanno indagati. Faccio un saltino a Roma perché c'è Ernesto. Buongiorno. Buongiorno. Sta bene? Sì, sì, sì. Stavo sentendo il signore. Con le bolle? Però, sì, sì. Però non è il caso mio, ma forse sembra simile. Le spiego. Proviamo, dai. All'interno del gomito, in particolar modo quando sudo, cominciano a venirmi delle bollicine, solo ma lì prudono in una maniera incredibile. E poi, insomma, una grattarola, Ernesto, si chiama così. E poi più gratta peggio, eh? Sì. Una grattata è troppo e mille non bastano, esatto. Si dice. Poi io porto la barbetta, il pizzetto, diciamo, no? Quando sudo sotto al collo o sul petto dove ci sono, diciamo, un po' di peluria. Sì, i peli, Non posso sudare, in poche parole non è questo. Ernesto non può sudare, allora, che cosa possiamo fare? Probabilmente il nostro amico Ernesto ha una reattività atopica, quindi la dermatite atopica, diciamo che è cugina di asma, rinite, congiuntività allergica, l'eczema costituzionale o comunque una reattività a quello, porta a una massima sensibilità della pelle nei punti soprattutto di maggiore, quando suda, laddove ci sono le pieghe, quando c'è caldo, caldo umido, per cui bisogna proprio abbassare la reattività e curare quello che c'è a monte. Ora chiaramente qui si possono dare dei consigli radiofonici, io non ho davanti Ernesto per farle tutte le domande, per fargli certo tutte le domande da Sherlock Holmes come che si fa nel corso di una anamnesi e di una visita medica, però quello che posso suggerire a Ernesto è di cercare per quanto può di avere su indumenti rigorosamente di cotone leggero e fresco, mai sintetici. Lino va bene. Lino è perfetto. Perfetto, perfetto, che dà un po' quell'idea stropicciata che fa di cercare di essere areato. Il sudore non gli fa particolarmente bene, il sudore, il caldo umido, ma l'ha già notato, di avere sempre magari dell'acqua termale spray da spruzzarsi sul collo quando ha più caldo. Che anche è molto chic, no? È molto chic. Le modelle vanno in giro con la bottiglietta di acqua minerale. Bene, gli amici della pelle vanno in giro con la bottiglietta di acqua minerale, con quella di acqua termale spray da spruzzarsi ogni tanto addosso, in mancanza della quale si prende uno spruzzatore delle piante, l'acqua minerale si mette dentro e ce la si spruzza ogni tanto. Acqua minerale mettiamo dentro. Beh, molto più chic l'acqua minerale, però diciamo che anche l'acqua di rubinetto va benissimo. Sì, perché io uso quella anche quella del sindaco, e insomma. L'acqua del sindaco, seguendo i consigli anche del mio amico chimico esperto di compatibilità, ecocompatibilità e biodegradabilità, se lei la voi la mettete in una brocca, a bocca un po' larga, e la lasciate una mezz'ora prima di usarla, anche tutti i sedimenti si depositano ed è ancora migliore. È dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male. Dal problema alla risoluzione. Dottoressa Serri, le piace? Moltissimo, perché è sempre importante concentrarsi sulle soluzioni e non crogiolarsi troppo nei problemi. Bravo, però il trucco è prepararsi. È una raccomandazione che direi vale per tutti. Oggi parleremo anche di bambini, di vecchiettini, perché il sole bacia tutti, belli e brutti, e ci bacia in continuazione. Appena ci vede, noi usciamo un attimo, lui smacchete. Allora, la pelle si difende, abbiamo detto, dottoressa Serri, ma noi possiamo darle una mano e quindi possiamo prepararla, ad esempio con degli scrub prima di esporci al sole. No, lo scrub no. Diciamo che lo scrub è un'attività da fare molto prima e in maniera molto delicata prima del sole, perché sennò si possono generare le cosiddette pigmentazioni post-infiammatorie. Ecco, ci bisogna dice che cosa dobbiamo fare per togliere questo colorino grigetto prima di esporci al sole. Al di là del colorino grigetto, devo dire che il sole fa particolarmente male a chi non si espone mai e poi improvvisamente va al sole tanto, per cui per prepararsi un po' al sole è bene iniziare magari a passeggiare al parco, anche se non si vive al mare, in montagna, in campagna, passeggiare e prendere un po' di sole sempre negli orari del mattino presto. Lo scrub va fatto, ma non subito prima del sole, diciamo fino ai 10-15 giorni precedenti, in maniera delicata. soprattutto se si ha una pelle scura che produce tanta melanina. Sì. E se si arriva allo scrub vuol dire che la pelle ha impurezze, eccetera. Però una cura costante, buona della propria pelle limita anche la necessità di scrub. Io infatti suggerisco sempre di lavarsi bene o col pannetto di microfibra. Adesso è uscito anche un altro ulteriore ammenicolo, che è uno spazzolino ultrasonico interessante. Perché l'azione meccanica toglie un po' queste cellule morte che in qualche modo impediscono ai raggi solari di attivare poi la reazione e la bronzatura. Come funziona? Ma funziona che comunque lo strato corneo, che è quello che viene chiamato cellule morte perché sono cellule senza nucleo, noi oggi sappiamo essere uno strato comunque metabolicamente molto vivo, comunque importante anche se non ha il nucleo. Quindi toglie gli eccessi di cellule cornee, toglie le cellule cornee che si sono intrappolate magari nei pori, che poi sono gli orifizi follicolari, e aiuta anche la microcircolazione. Se arriva a massaggiare il viso quando si lava, è una buona detersione, quindi togliere tutte le sporcizie del trucco, dell'inquinamento, della vita quotidiana, eccetera. E così ci prepariamo ad avere una pelle molto più bella e pronta a cogliere il sole. Ma noi possiamo aiutare anche la nostra pelle assumendo alcune sostanze che proteggono e direi al tempo stesso rendono anche le cellule più resistenti agli effetti del sole. In linea con noi abbiamo il dottor Massimo Gualerzi, che è cardiologo e autore di un libro che a me piace molto e che vi consiglio sempre di leggere, che si intitola Super Salute. Dottor Gualerzi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, vogliamo abbronzarci e sappiamo che possiamo aiutare la nostra pelle anche con un aiuto che arriva dall'alimentazione, dall'integrazione. Insomma, ci sono delle sostanze che sono amiche della nostra pelle e quindi anche dell'abbronzatura, anche se questo in realtà, come abbiamo detto, è il meccanismo di difesa della pelle. Sì, certo, mi piace molto la canzone che avete messo, perché dalla pelle al cuore di Venditti. In realtà io dico sempre che ciò che fa bene alla pelle fa bene al cuore e viceversa, no? Quindi dobbiamo trattare e prepararci anche alimentandoci nella stessa ottica con cui vorremmo, proteggendo la pelle, nella stessa ottica con cui vorremmo proteggere e trattare bene il nostro organismo, il nostro cuore. Non c'è molta differenza. In realtà il sole rappresenta, anche se diciamo preso a giuste dosi, come abbiamo sentito dire fino adesso, un insulto. Quindi dobbiamo difenderci da quelle reazioni che in realtà possono avvenire, che sono poi l'infiammazione, no? La produzione di radicali liberi, e quindi dobbiamo adattarci e dobbiamo, diciamo, prepararci a gestire bene questo, diciamo, anche se diciamo blando insulto. La prima regola è quella dell'idratazione, quindi dobbiamo idratarci. Certo. Al posto della banale acqua, che comunque è sempre da consigliare, possiamo anche aggiungere all'acqua delle sostanze antiossidanti, e ricordiamo sempre il ruolo del tè, di questo tè verde, in particolar modo il tè verde bancia, no? Che è un tè senza teina, un tè integrale senza teina, che quindi possono bere anche i bambini, e va molto bene perché oltre ad idratarci ha un'azione proprio antiossidante, antinfiammatoria, e quindi aiuta a lenire anche gli effetti, diciamo, di arrossamento o comunque di infiammazione sulla pelle. Sicuramente dobbiamo sfruttare, abbiamo sentito parlare di vitamina D, dobbiamo sfruttare il ruolo della vitamina D, che è quello di favorire l'assorbimento del calcio tra le tante che ha, e quindi dobbiamo cercare di mangiare più calcio. In questo caso, invece di affidarci alle classici alimenti che sono, diciamo, nella mente di tutti, che sono i latticini, io propongo delle fonti di calcio vegetali che sono più apprezzate anche d'estate. Ad esempio i broccoli sono un alimento che, oltre ad avere, diciamo, flavonoidi e quindi anche carotenoidi, ha molta concentrazione di calcio, e quindi mangiare una bella insalata di broccoli aiuta a fornire quel calcio, che però poi verrà fissato alle ossa tramite la vitamina D che viene prodotta dall'esposizione al sole. Quindi diciamo un ottimo stato, diciamo, una buona insalata, diciamo, può con broccoli, con carote che contengono carotenoidi, no? Possono aiutare tantissimo. Il tutto condito con la chicca di oggi, diciamo, possono essere semi di goji, che sono dei semi di goji di cui si sente parlare in questi ultimi tempi, che vantano numerose virtù. Sì, quasi innumerevoli, e quando ce ne ho così tante delle volte si fa anche fatica a ricordarle, però in realtà diciamo che sono dei semi tra l'altro molto gustosi, che possono arricchire sia i primi piatti, sia le insalate, sia possono essere messi anche all'interno dei dolci, ricordando quasi delle bacche di cioccolato, quasi di cacao, no? E in realtà bastano quasi 12 bacche al giorno, messe magari nell'insalata, per dare un'azione assolutamente antinfiammatoria alla nostra insalata, quindi sono degli antiossidanti, no? Ci aiutano dagli effetti e ci proteggono dagli effetti, diciamo, del sole, quindi producono e aiutano, diciamo, forniscono vitamina A, forniscono carotenoidi, forniscono flavonoidi e quindi hanno un'azione antiossidante, rigenerativa e anche sicuramente energetica. Quindi diciamo, bere molto, no, mangiare cibi che contengono calcio e quindi diciamo anche sostanze che possono aiutare a sfiammare. Quindi delle belle insalate, ricordiamoci i colori, quindi diciamo proprio anche in questi giorni in cui gioca la nazionale, ricordiamoci i vari colori, bianco, rosso e verde. Cerchiamo di fare delle insalate con del rosso, quindi con delle carote che sappiamo, no, è un po', sappiamo tutti, aiutano la bronzatura, più che altro perché forniscono sostanze che ci proteggono dai danni del sole. Sì. E sostanze verdi come i broccoli, abbiamo detto che ci portano calcio, sostanze bianche come i finocchi, che ad esempio, anche se in questo momento sono un po' fuori stagione, ma possono dare, diciamo, o anche come il cavolfiore, possono dare molto calcio, molti sali minerali, conditi tutti con un po' di semi di goji che appunto racchiudono in sé tutte quelle proprietà che abbiamo detto e molte altre che man mano scopriamo, ma sicuramente sappiamo fare bene all'organismo, sia all'interno, sia al cuore, alle arterie, ma anche alla pelle. Grazie dottor Gualerzi, proveremo questi semi, noi dobbiamo andare ai mercati. Una battuta veloce dalla dottoressa Serri, no, che vedo il che goji vuole... è proprio come il sole, perché il goji fa benissimo, ma non fate mai come me, che siccome era così buono mi sono mangiata un sacchetto da mezzo chilo di goji tempo fa, ecco, sono stata malissimo. Questo, quindi, è proprio, infatti, la il dottor dimostrazione dice ha 12, detto 12, 12, ecco, bacche, non 1200. Essere e benessere. Non è colpa mia, è questo stupido zono messicano. No, lo zono messicano non è stupido, Laila. Bastava mettersi la protezione solare. Cercavo di abbronzarmi. No, volevi la bronzatura selvaggia. Ma tu da che parte stai, Eddie? Come? Da che parte sto? Dalla mia o da quella dello zono? Scegli! Sto dalla tua parte, certo, ma calmati. Senti, ora ti metto un po' di aloe sulle spalle, ok? Dovrebbe darti un po' di sollievo. Ah! Come reagisce la vostra pelle al sole? 800 24 00 24. Un'amica mi ricorda di ripetere il numero per gli sms, volentieri. 349 238 6666. Come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Abbiamo Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, che secondo me dottoressa Serri si abbronza poco, perché è chiaro, vede, e si arrossa. Allora, la vostra pelle come reagisce? Si arrossa, si abbronza, vi spellate, vi macchiate? Chiamateci, ma diteci anche, oltre al vostro problema, qual è il vostro obiettivo, cosa vorreste ottenere e cosa evitare: le rughe, le macchie, i brufoli. 800 24 00 24. Pietro da Bitonto, Costanza da Pesaro. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io quando prendo il sole, poi la pelle mi diventa tutta macchia bianca. E poi le macchie ritornano, si fermano lì oppure si trasformano? No, no, si fermano lì, ma durano parecchio. Allora, a differenza di molti ascoltatori che come noi si abbronzano, invece Pietro sembra avere il problema opposto, si espone e si sbianca. E si sbianca, vengono queste macchie bianche, bisogna vedere dove vengono. E io francamente non posso che suggerirgli di andare a farsi visitare, perché fare una diagnosi, sì, in questo caso può essere un'ipopigmentazione post-infiammatoria, ma può essere un'ipopigmentazione legata a altri fattori, per esempio la presenza di un lievito, che è un fungo che impedisce che la pelle si pigmenti laddove cresce troppo, il famoso, quello che chiamano fungo di mare, ma che non c'entra col mare. e che vive normalmente sulla nostra pelle, in certi casi cresce troppo e allora va tenuto a bada. Comunque però, un occhio, si faccia dare un occhio dal dermatologo. Parleremo tra poco anche di creme, di solari, perché abbiamo parlato della protezione. Possiamo preparare la nostra pelle innanzitutto tenendola, manutenendola, quindi tenendola adeguatamente idratata, ben detersa. Il dottor Gualerzi ci ha dato qualche indicazione, dai broccoletti alle bacche, per aiutare le cellule dermiche a resistere bene agli insulti del sole. Ma naturalmente poi abbiamo anche i solari. Come scegliere, quali scegliere, quando darli e in che quantità darli? Ne parliamo tra poco, dopo aver sentito che cosa ci racconta Costanza, che ci chiama da Pesaro. Buongiorno Costanza, benvenuta. Grazie, grazie mille, buongiorno a voi. Io vorrei chiedere alla dottoressa perché la mia pelle è così strana, in quanto io posso stare proprio di prima botta al sole anche 8 ore, non mi scotto e non mi abbronzo, però produco molti basiliomi e vorrei, se fosse possibile, abbronzarmi di più e avere basiliomi di meno. Ecco. Mi sa che la cosa è un po' inconciliabile, come dire, vorrei mangiare tutte le sant'onore che voglio e pesare 40 kg. Non è possibile. Se lei produce questi tumori epiteliali della pelle, che non sono pericolosi, ma che hanno una, diciamo, tendenza a crescere, sono dei tumoretti maligni della pelle che vanno sempre regolarmente asportati, il sole non va preso. Va preso poco sole la mattina presto, fino al massimo alle 9, 9 e mezza, ma neanche. Mi sono allargata un po'. 9, e poi 20. Protezioni 50 più. E comunque, eventualmente, trovare dei sistemi che oggi i dermatologi hanno anche di aumentare le difese della pelle nei confronti dei raggi solari, prendendo le fotoprotezioni attive. Ne ha parlato prima un po' il cardiologo, come alimentazione, ma ci sono anche integratori e anche farmaci che possono essere assunti. Quando sono quelli che si vendono, li troviamo in farmacia? Si trovano ma in anche farmacia, oppure a dosaggi più farmacologici vengono prescritti dal dermatologo. Sono quelli che vengono un po' visti come acceleratori di abbronzatura, o io sento anche le mie figlie, le prendiamo così ci abbronziamo di più. In realtà non funziona così, vero? Non accelerano l'abbronzatura, ma siccome proteggono la pelle dai danni, limitano l'intensità dell'eritema. L'eritema, anche se non si vede come succede nei neri, per esempio, è la fase necessaria perché il melanocita produca l'abbronzatura, quella ritardata, quella veramente protettiva, quella che ci piace. Per cui, però, se rendono più efficace in pratica l'eritema, che sia o meno visibile, è meno intenso, quindi ci si abbronza meglio, ma soprattutto si è più protetti dai danni del sole con queste fotoprotezioni attive. Quando si devono prendere? Perché non è una pastiglietta magica che si prende al momento in cui mettiamo gli zoccolini e il costume e andiamo in spiaggia. Anche lì, parola d'ordine è attivarsi e prepararsi. Esatto, però siccome moltissimi non si attivano, diciamo meglio tardi che mai. L'ideale è iniziare 20-30 giorni prima delle esposizioni. Però, ripeto, meglio tardi che mai. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Arrivo, lettino. L'acqua zigrinata dal ventarellino di maestrale. Silenzio, uccellino. Arriva la mia moglie con una borsa 70x40, una bombola da sub arancione, col figliolo. Faccio, non prendere la bombola, guarda, la piscina è bassa. No, è il tubo della crema solare. Tira fuori questa bombola. Fa un'anguilla. Poi prende il figliolo, mette lì. Girati. Dopo mezz'ora era un pane di burro mio figlio. Per guardare negli occhi così. Io un'ora sotto il sole fa: senti amore, me ne dai un goccino anche a me? Guarda che costa tanto. Essere e benessere. Dottoressa Serri, allora i solari dell'anno scorso li teniamo o li buttiamo? No, dobbiamo proprio buttarli via. Infatti i solari vanno presi in confezioni grandi solamente se si usa lo stesso per tutta la famiglia. Se no è meglio andare al sole con confezioni più piccole, tenerle possibilmente in una a Londra. Busta termica, ci sono quelle bustine termiche, ma anche quelle che hanno i supermercati del sì. congelato, piccolina, tenerle in una al busta fresco, al insomma. Fresco e cambiarli ogni anno, sia perché i filtri perdono la loro efficacia, sia perché determinati prodotti possono anche irrancidirsi, per cui se il solare è stato aperto ed è stato al sole, va cambiato. Se il solare invece è nuovo, ancora chiuso ed è stato tenuto in un luogo fresco e asciutto, a può casa. Essere utilizzato. Okay. Esatto. Scelta e anche quantità. Come lo scegliamo? Lo scegliamo in base al tipo di protezione di cui abbiamo bisogno. Io suggerisco sempre di avere almeno uno stick o una crema protezione 50+, che è la protezione massima che possiamo avere. Da usare soprattutto negli orari centrali della giornata, se per caso siamo a fare una gita in barca, in montagna, da mettere nelle zone più esposte, sul viso, se vogliamo mantenere al meglio la nostra pelle, vogliamo prevenire i danni. Poi consiglio di avere una protezione media, almeno questi due prodotti. E poi il solare, cosa vuol dire? Media vuol dire 30, perché oggi media è 20-30 all'incirca. Oggi le protezioni si suddividono in bassa, media, alta, 50+, al di là dei numeri, perché i numeri possono variare anche a seconda di, come diceva bene lei, la quantità di solare che si mette. Molto spesso le persone non mettono sufficiente quantità di prodotto. Quanto bisogna mettere? Bisogna mettere, ora io non voglio stare a dire un centimetro di crema per ogni tot centimetro quadrati di pelle, però diciamo che calcolando un settore come il viso, almeno su tutto il viso, almeno una falange, per cui qualche falange su tutto il corpo. Poi bisogna vedere anche a seconda del tipo di pelle e a seconda del tipo di protezione, perché è anche importante scegliere il solare in base al tipo di pelle. Cioè una pelle grassa, seborroica, magari acneica o con dermatite, avrà bisogno di un solare formulato appositamente per quel tipo di pelle, più lenitivo e non comedogenico, a differenza magari di una pelle più secca. Le gambe non hanno bisogno di solari non comedogenici perché non tanto hanno praticamente non gli vengono, ghiandole sebacee. Certo. Gli oli solari non vanno mai usati per chi è troppo chiaro di pelle o per chi necessita di protezioni medio-alte, perché comunque offrono una protezione sempre più bassa, anzi possono un po' incrementare l'azione del sole, per cui io li consiglio solo per nei questo, fototipi più alti e più scuri. Invece tendenzialmente uno dice metto l'olio così mi abbronzo più. Esatto. Il trucco è abbronzarsi gradualmente, esporsi gradualmente, ma solo nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Negli altri orari applicare tipo dalle 10:30-11 alle 4 un alto o 50+, se vogliamo mantenere bene la pelle, poi. E medio negli altri orari e nulla la mattina fin verso le 9 e il pomeriggio dopo le 5:30. Fantastico, questo è tutto l'occorrente per prendere dal sole tutto il meglio che può dare, limitando gli eventuali danni. Dottoressa Serri, anche nei capelli, che succede più o meno la stessa cosa che capita con la pelle. Noi dopo una vacanza al mare notiamo che i capelli sono hanno dei riflessi fantastici che li rendono anche più belli, ma questi riflessi sono per i capelli l'equivalente che l'abbronzatura è per la pelle, infatti sono un po' stressati. Sì, il fusto del capello è completamente stressato, schiarito, cioè le tegoline che costituiscono il fusto sono tutte, si dispongono anarchicamente. In più il follicolo, che è il bulbo del capello, subisce dei danni anche lui dal sole, infatti ci sono dei danni di tipo ossidativo, cioè danni da radicali liberi. Ma allora, sui capelli, per chi va al sole, resta al sole, ci vuole una protezione, ci sono quegli olietti che si mettono sui capelli che fanno un po' l'effetto spettinato, un ticcio umidiccio, ci piacciono? Ma magari è meglio un cappello. Meglio un cappello. Ci sono degli spray protettivi. Io mi sono comprato un cappello ma magnifico, ora sto io benissimo. Sono per i cappelli, per fare le romantiche elegante. Donne inglesi, molto e va bene elegante. Anche per gli uomini. Va molto bene anche per gli uomini, perché gli uomini spesso hanno pochi capelli al vertice, questa è una cosa si devono, si bruciano, ma poi hanno anche dei tumoretti proprio sulla cucuzza. Quindi cucuzza. Mi raccomando, mettetevi cappellini, il cappello. Siete anche così carini col cappello. Beh, insomma, non allarghiamoci, dipende dall'uomo e dal cappello. Sì. Allora, abbiamo parlato di capelli a cui il sole regala dei riflessi dorati. In un libro che è appena uscito e che mi è piaciuto molto, e vi segnalo con piacere, La scienza della giovinezza, Margherita Enrico, che è in linea con noi, ciao Margherita. Ciao, buongiorno. Che è l'autrice, invece racconta una ricetta per evitare che i capelli diventino grigi. Insomma, se il sole, Margherita, regala i riflessi dorati, gli anni regalano riflessi grigiastri, che non sempre piacciono, anche se adesso c'è la tendenza di andare, anche per molte donne, di lasciarsi naturale, mi piacciono molto. Comunque, dammi la tua ricetta. Allora, guarda, se i capelli grigi sono risultato ovviamente di una carenza nutrizionale, se nella dieta mancano ovviamente i nutrienti e gli oligoelementi, ovvio, no? Non è un certo problema genetico, e si evitano le brutte abitudini, cioè il consumo di farine bianche, zuccheri, fumo, la vita sedentaria, eccetera, si può mettere in pratica questa ricetta che ha un effetto fantastico sui capelli grigi. Andiamo, perché abbiamo poco tempo, scusa Margherita. Che in mezzo litro di succo verde. Cos'è diluito il succo con verde? Mezzo litro di acqua, in totale un litro, da bere ogni giorno. Da cosa è composto? Da il succo verde, da un tipo di verdure verde scuro a foglia verde come spinaci, bietole, cavolo, broccolo, un cetriolo o un gambo di sedano, una mela o un'arancia, un limone e un pizzico di zenzero. Questo da bere ogni giorno per un mese, due mesi, si incomincia a vedere il risultato, ovviamente evitando poi gli alimenti confezionati. Certo, bisogna, poi non basta bere il succo verde, però la ricetta è questa, quindi 500 mezzo litro di questo succo verde ottenuto facendo bollire verdura, foglie verdi, broccoli, si aggiunge il cetriolo, la mela, giusto? Metteremo o in centrifuga o nell'estrattore a freddo, perché con il frullatore ovviamente certo, la temperatura aumenta, raggiunge circa i 50 gradi, vengono distrutti gli enzimi e anche la vitamina C. Quindi metà succo verde, metà acqua, la ricetta di Margherita Enrico sul suo libro La scienza della giovinezza, che noi copieremo, naturalmente metteremo sulla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti, a Filippa Orreggi, regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi, come sempre in redazione, alla nostra derma amica, che incontreremo prestissimo. Grazie. Ciao. Grazie dottoressa Serri, e io vi aspetto domani. Buona giornata. Essere e benessere.